pronto al pentimento. Una sera, dopo che gli furono esibiti alcuni magnifici cavalli ritti su tre zampe, disse: «In verità, ho amato i beni terreni più che il ricordo del mio Signore, finché non sparì il sole dietro il velo della notte. Riconduceteli a me». E iniziò a tagliar loro i garretti e i colli. Mettemmo alla prova Salomone, mettendo un corpo sul suo trono. Poi si pentì e disse: «Signore, perdonami e concedimi una sovranità che nessun altro avrà dopo di me. In verità, tu sei il munifico». Gli assoggettammo il vento, soffiava al suo comando fin dove voleva inviarlo, e gli asservimmo tutti i demoni, costruttori e nuotatori di ogni specie, e altri ancora incatenati a coppie. Questo è il nostro dono, dispensa o tesaurizza, senza doverne rendere conto. In verità egli ha un posto vicino a noi e un buon luogo di ritorno. E ricorda il nostro servo Giobbe quando chiamò il suo Signore: «Satana mi ha colpito con disgrazie e afflizioni». Batti il tallone, avrai acqua fresca per lavarti e per bere. Gli restituimmo la sua famiglia e con essa un'altra simile, segno di misericordia da parte nostra e monito per coloro che sono dotati di intelletto. Gli ordinammo: «Stringi nella tua mano una manciata d'erba, colpisci con quella e non mancare al tuo giuramento». Lo trovammo perseverante, un servo ottimo, pronto al pentimento. E ricorda i nostri servi Abramo, Isacco e Giacobbe, forti e lungimiranti. Ne facemmo degli eletti affinché fossero il monito della dimora ultima. In verità sono presso di noi tra i migliori degli eletti. E ricorda Ismaele, Eliseo e Zul-Kifl, ciascuno di loro è tra i migliori. Questo è un monito. In verità i timorati avranno soggiorno bello, i giardini di Eden, le cui porte saranno aperte per loro. Colà, comodamente appoggiati, chiederanno abbondanza di frutta e bevande, e staranno loro vicine quelle dallo sguardo casto, coetanee. Ciò è quanto vi è promesso per il giorno del rendiconto. In verità questi sono i beni che vi concediamo e che non si esauriranno mai. Così sarà. I ribelli avranno invece il peggiore dei soggiorni, l'inferno in cui saranno precipitati. Qual tristo giaciglio! Così sarà, e allora che assaggino acqua bollente e acqua fetida ed altri simili tormenti. Questa è una folla che si precipita insieme con voi, non avranno benvenuto e cadranno nel fuoco. Diranno: «Non c'è benvenuto per voi che ci avete preparato tutto ciò». Qual tristo rifugio! Diranno: «Signore, raddoppia il castigo nel fuoco a chiunque ce l'ho abbia preparato». Diranno: «Perché mai non vediamo tra noi quegli uomini che consideravamo miserabili, dei quali ci facevamo beffe e che evitavamo di guardare?» In vero, saranno queste le mutue recriminazioni della gente del fuoco. Di: «Io non sono altro che un ammonitore. Non c'è altro Dio all'infuori di Allah, l'unico, il dominatore, il Signore dei cieli e della terra e di ciò che vi è frammezzo, l'eccelso, il perdonatore». Di: «Questo è un annuncio solenne, ma voi ve ne allontanate». Non avevo nessuna conoscenza della discussione del supremo consesso. Mi è stato solo rivelato che non sono che un ammonitore esplicito. Ricorda quando il tuo Signore disse agli angeli: «Creerò un essere umano con l'argilla. Dopo che l'avrò ben formato e avrò soffiato in lui del mio spirito, gettatevi in prosternazione davanti a lui». Tutti gli angeli si prosternarono assieme, eccetto Iblis, che si inorgoglì e divenne uno dei miscredenti. Allah disse: «O Iblis, cosa ti impedisce di prosternarti davanti a ciò che ho creato con le mie mani? Ti gonfi d'orgoglio ti ritieni forse uno dei più elevati?» Rispose, «Sono migliore di lui, mi hai creato dal fuoco mentre creasti lui dalla creta». Allah disse, «Esci di qui, in verità sei maledetto, e la mia maledizione sarà su di te fino al giorno del giudizio». Disse, «Signore, concedimi una dilazione fino al giorno in cui saranno resuscitati». Rispose Allah, «Tu sei fra coloro cui è concessa dilazione fino al giorno dell'istante noto». Disse, «Per la tua potenza tutti li travierò, eccetto quelli fra loro che sono tuoi servi protetti». Allah disse, «Questa è la verità. Io dico in verità che riempirò l'inferno di te e di tutti quelli di loro che ti seguiranno». Di, non vi chiedo ricompensa alcuna, né sono fra coloro che vogliono imporsi. Questo non è che un monito per le creature, e tra qualche tempo ne avrete certamente notizia.